Nel dire che ho anche risolto la questione Morgan, che può portare le sue cose lì. Ma dove? In che posto? In che posto? Ah, Stutri! Porca puttana, te l'ho detto! A Villa Savorelli! E i disoccupati e la gente che perde la casa? Ma un artista è più importante, testa di cazzo! È più importante l'arte, perché essa insegna cosa c'entrano gli disoccupati, coglione! Non dire stupidaggini! Un genio va preservato! Se tu hai Michelangelo, lo fai lavorare, testa di cazzo! Non permetterti di fare retorica con me! No, no, no, fermo! Fermo un attimo, fermo. Bravo. Fermo. Un segno. Tu vuoi dare, soldi pubblici, esatto. Un posto non pubblico, Ma non gli do niente, gli do uno spazio inusato, vuoto pubblico, perché insegni anche a te, testa di cazzo, non ti permettere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Non ti permettere, non fare lo stronzo. No, non ho detto gioia. Eccolo! Viva Catanzaro, viva il sud, fanculo tu e quel mentecatto di Feltri, quell'altro rimbambito e giullare che lo portate in trasmissione soltanto perché lui ha parlato male del sud. Ma applausi, chi dice? Ma quello è rimbambito. Applausi. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Fatti un po' dire da Parenzo che un po' di cultura. Ma vedi che cosa c'è a Catanzaro. Grazie, amico caro, grazie. Uno dei migliori teatri d'Italia. Bellissimo. Coglioni. Posso un esempio? Avete cacato il cazzo. Ricordarmi, cretino, posso ricordarmi che a Catanzaro facevano era la fabbrica degli avvocati d'Italia, Catanzaro, taroccavano gli esami, vergognati. Abbiamo preferito gente come Mimmo Rotella, grandi artisti e grandi ricordati Mimmo Rotella, bravissimo, quando parli di Catanzaro, certo, che è uno dei posti più brutti di bambito di libero, hai capito? Ciao Crucio, mi hanno diagnosticato una nuova malattia, la zanzafobia, ovvero la paura che la trasmissione chiuda, ma penso che molti altri oltre a me ce l'abbiano, quindi a settembre non fare scherzi, che se no veniamo tutti sotto via Monte Rosa e ti stendiamo. Agosto che non c'è ci sarà la zanzara, come faccio? Da quale pusher devo andare? Ragazzi, siamo qui, Monte Rosa 91, 20149, Mailand, Milano, vai, grazie la corte, in collegamento, sì, d'accordo, se no mi rompi i coglioni, poi allunghi il brodo, non dalla sede della 7, ma da un ufficio distaccato di fronte agli studi, va bene così? Come devo dire, David Parenzo, messo a disposizione dalla grande dirigenza, d'accordo? Dalla grande dirigenza della 7, esatto, benissimo, così esatto, non mi rompi bene, i coglioni. Molto bene. David Parenzo, applausi. Un ufficio dotato di aria condizionata. Bene. Ma scusa, di un piccolo detto questo, telefono, te l'hanno di messo, una connessione internet. Te l'hanno messo il cazzo di presa LAN là che ti devono mettere, oppure sei sempre attrezzato a cazzo? La dirigenza suddetta si sbrigasse a installare questa roba. Grazie. Non è competenza della dirigenza installare alcunché sul mio telefono, sul mio computer, non è vero? Anzi, va ringraziata e omaggiata l'intera dirigenza, benissimo, di aver messo a disposizione per la solerzia con la quale in tempo record ha messo a disposizione del lavoratore impiegato, Parenzo, l'impiegato. Sai come, cioè, com'era Fantozzi? Una stanza all'interno. Una stanza dedicata di 12 metri quadri. 12 metri quadri. 12 metri quadri. Grazie. Allora ragazzi, iniziamo subito. Ma quando mandi questa cosa qua mi mandate ai matti. Iniziamo Vabbè. Subito con Porro. Allora, Porro scatenato col paese morto, Porro. La mascherina a scuola, eccetera eccetera. Vai con Porro, vai. Poi una notizia importante, perché una coppia di turisti americana con un aereo privato, Porro. Incredibile, è stata fermata. È stata fermata e rimandata indietro dalla Sardegna. Cioè, praticamente stiamo ammazzando il turismo per le regole anti-Covid che ci sono. La regione non ha nessuna responsabilità. Un aereo privato di americani che volevano evidentemente spendere quattrini in Sardegna è stata rimandata a casa. Questa è una piccola parentesi che apro, vai. Questo è un paese morto, un paese che ancora ci porterà a scuola con le mascherine, un paese per cui devi avere, ieri vai in via Montenapoleone, la più importante via di Milano, il centro dello shopping mondiale, entri da Cova, che era il posto, il tempio della bellezza, della ricchezza, che fa bene a una città, e questi che te fanno? Te fanno lo scanner e ti mettono un metro e mezzo di distanza l'uno dall'altro, tre persone massimo al bancone. Il colpo non è di Cova, Cova è straordinaria. Sapete qual è la colpa? La colpa è di questo governo di merda che non ci troverà mai questi protocolli sanitari per i quali ancora siamo lì che pensiamo che stiamo morendo. Allora, ti posso dire una cosa, che io personalmente, qui lo dico, guardi, in maniera molto chiara, caro David, io dei protocolli sanitari ormai me ne sbatto i coglioni. Sei un irresponsabile. Sì, sono diventato, sei un vergognoso irresponsabile, gottardiano, sei peggio di Trump. Peggio di Trump. Io in Italia, sei Bolsonaro. Ma che c'è? Bolsonaro sei. Cosa, no? Sei un irresponsabile. Ormai di dei protocolli persone. Sanitari. Certo, entro dentro un ufficio e mi metto la mascherina. Per esempio, all'aperto non me la metto più. Stringo le mani a tutti, mi avvicino a tutti, me ne sbatto i coglioni. Porro. Lo vedete questa bellissima camicia blu? Ve lo dico con orgoglio, Keaton, il lusso italiano, ve lo posso dire, Keaton si deve spendere, dobbiamo riuscire a fare qualche cosa nella vita, perché sennò noi, senza lusso, senza turisti, senza bar, senza Cova, quanto costerà? Morti, quanto morti costa quella maglietta che tu hai? Senti, non cominciare quella camicia a Keaton che tu hai, quanto costa? Che se l'avessi fatto io mi avrebbero distrutto. E invece tu quelle marchette le accetti, Keaton, grandissimo sarto napoletano. Ma in quanti se la possono permettere quella camicia a Keaton che costerà almeno 300 euro? Intanto ha slinguato anche lui, il grande sarto. Ma intanto anche lui ha slinguato. È uno dei più grandi. Ma non mi arriva niente a casa. Mi faccio regalare come te gli anelli, vergognati, a me non mi hanno mai regalato nulla, li ho sempre comprati di tasca mia, vergognati, senti Porro, contro, ridicolo, e invito l'AGCOM a fare un'indagine su di te, su quello che ti regalano, su ogni giorno, AGCOM, devi intervenire, non so se sia l'AGCOM o che cosa, ma qualcuno intervenga per verificare, qualcuno intervenga per vedere, ma cosa, gli anelli sì, ogni tanto me li qualcuno regalo, qualcuno intervenga, amico. Se ad esempio l'ospedale San Raffaele di Zangrillo ti fa fare gli esami gratis, qualcuno intervenga, l'AGCOM, qualcuno, non so se è l'AGCOM, qualche ente, cazzo, è un paese pieno di enti, ANAC, UNAP, PINAC, CICA, che non si capisce più un cazzo, qualche ente intervenga e stoppi questa trasmissione immediatamente. Conte, Di Maio, ma che fine avete fatto? Cioè, vi scandalizzate per tutto, abbiamo rotto i coglioni. E la Boldrini, io dico la Boldrini, quella che si mette in ginocchio per Black Lives Matter, quella là, quella signora lì, perché l'onorevole Boldrini non si mette in ginocchio per i 370 giusto. Persone ingiustamente arrestate ieri, ma solo cosa, perché manifestavano per la libertà a Hong Kong? Giusto, giustissimo. Inginocchiatevi anche per la repressione cinese, inginocchiatevi anche per questo, suggerisce Porro. Poi introduce un grande argomento, devo dire la verità, l'argomento è quello del Palio di Siena. Bisogna tutti inginocchiarsi, oggi non ci inginocchiamo, ma fare una prece per il Palio, sì, che oggi doveva svolgersi. Intanto un grande abbraccio a tutti gli amici contradaioli senesi che stanno oggi, in sì, parte festeggiando nelle contrade. Però perché oggi i è 2 luglio, nelle purtroppo sono quasi in lutto, perché oggi purtroppo per il Covid, ma secondo me è una minchiata, certo, si poteva fare tranquillamente, certo, però purtroppo il mondo va così e non si potrà però fare il Palio. Senza un Palio, senza la gente, come fai a farlo? È impossibile, la festa è quella. Però un abbraccio fortissimo, viva il Palio, viva i cavalli, certo, avanti tutta. Spero a settembre, l'anno prossimo, non so, di essere lì con voi. Abbasso quegli animalisti, sì, certo, teste di cazzo, che oggi invece esultano, vai. Il paese che perde l'anima. Se perdi il Palio di Siena, perdi l'anima di questo paese. Sembra di stare tutti a Detroit. Siena non è Detroit. Siena non è Minnesota. Siena non è Tampa, porca puttana. Non solo perché è bella, non solo perché c'ha i suoi palazzi, non solo perché c'ha le sue strade, i suoi ciottolati, ma anche perché c'è il suo Palio di Siena. Allora, posso dire una cosa? Adesso sentiremo un altro pezzo su questo. Devo dire una piccola obiezione. Perfetto, Porro. L'unica piccola obiezione è quella che lui da questo parco, con la camicia di Keaton, le cicale di sottofondo, il cameriere che gli porta da mangiare, a lui non dici niente. A Porro non dici nulla. La camicia firmata, le super vacanze, le cicale di sottofondo nel parco di una villa. Nel parco di una villa. Non gli dici nulla a lui. Turbo populista con il portafoglio. Tu non dici nulla, tu zitto, muto stai quando senti e vedi questo. Però, scusa, sfregio, ma qualcuno potrà intervenire, la GCOM, l'ANAS, per la società autostrade, qualcuno per chiudere questa trasmissione, l'ANAS, la società auto, l'ANAC, io non lo so, una azienda, quanti enti ci sono, tanti, in Italia? Quanti? Sono ce ne sarà uno che viva Dio può bloccare questa messa in onda. L'ANAS, l'ANAC, l'ACI, l'Adusbef, il Codacons, qualcuno intervenga. In tempo reale, una mail, cosa dite alle numerose obiezioni fatte a questo programma? È solo l'audience che vi fa andare avanti? Va in onda in fascia non protetta e con tutte le volgarità, esatto, io dico pornografia, esatto. Come si fa a essere complici, esatto, di questo scempio? Come? Parenzo bravo, ogni giorno bravo, dice che il programma è volgare, esatto, ma lui mangia in questo piatto. È ora di chiudere, sì. Cruciani è come la D'Urso, sì. Cruciani è come, esatto, la D'Urso, forse peggio. Attendo risposta, saluti Sergio. Sergio, vai a fare in culo, questa è l'unica risposta. Vai sonoramente a fare in culo. Fermo là, c'è un altro Porro che però dice una, Sergio, cosa. Sergio, vai all'ANAC, vai all'ANAS, no, fai un esposto. Che non c'è? Lo so, vai da qualche parte, non lo so. Porro. Se noi pensiamo di rinunciare a queste stronzate, a queste robe, per queste stronzate continue, innegabili, della paura che ci siamo messi per gli assemblamenti, senti le cicale sotto, morirà. Allora, posso dire una cosa? Però a Porro posso fare una piccola obiezione. Se gli stadi di calcio sono chiusi, magari lui li vorrebbe aperti. È impensabile che il Palio oggi si potesse svolgere con tutta la gente lì. Qualcuno avrebbe gridato allo scandalo, probabilmente non sarebbe successo un cazzo, cioè i contagi non sarebbero aumentati nemmeno di una persona, o comunque sarebbero aumentati, ma sarebbe stato il solito Covid leggero che c'è adesso. Cioè, secondo me non sarebbe successo niente, ma se tu consenti a una piazza come quella di Siena di essere piena, è ovvio che poi devi aprire anche gli stadi, le manifestazioni pubbliche, i concerti e tutto. Questo mi sembra abbastanza evidente. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Se dipendesse da me, io i soldi per la pubblicità nella sua trasmissione non li metterei. Sempre a difendere tutte ste fecce di merda che arrivano in Italia. Questo è per te. Vergognatevi. Da chi? Parenzo, vai tu a abitare da loro, portateli a casa te, coglione. propongo una menzione d'onore all'ascoltatore Francesco da Firenze, che ieri ha fatto il culo a quel becero bifolco evasore di Vissani, e con ovviamente l'altro lì, il manutengolo Cruciani, che ovviamente sempre a succhiare il cazzo ai ricchi, come diceva giustamente l'ascoltatore. Ma il clima sta cambiando, sta cambiando. Che saluti sta... Parenzo dalla colonna marchigiana della maggioranza silenziosa. A parte che qui la maggioranza silenziosa viene evocata un giorno sì e l'altro pure da Trump, dunque bisogna cambiare, bisogna che cambiate nome, perché adesso viene evocata da Trump perché dice è silente la maggioranza, ma si rivelerà a novembre la maggioranza. Lo danno per spacciato il trampone, ma vediamo che succede a novembre, vediamo. Posso dire una cosa? La tua Europa, la tua famosa Europa, la tua preziosa Europa, la tua elogiata Europa, eccetera, dovrebbe darsi da fare. Adesso affronto un argomento di cui in realtà non me ne frega un cazzo, ma a una marea di amici miei hanno cancellato un volo aereo in questa settimana, è caduto anche a molti italiani. L'Europa ha fatto le norme, il problema non è fermo, fermo lì, stai ancora. Zitto, giù. Allora, la cosa è molto semplice. Questi stronzi delle compagnie aeree, tutti interi, nessuno escluso, che invece di rimborsare i biglietti, danno i voucher del cazzo, se li mettessero in culo i voucher. L'Europa ha detto esattamente L'Europa questo. Deve fare, solo deve i governi, fare, deve lo fare. Ha detto, sono Mudo, i governi zitto, nazionali giù, che giù, poi giù, lo giù, fare. Giù, giù. Sì, come al solito. Giù, giù. Allora, le compagnie aeree devono mettersi in testa che non possono fare i furbacchioni. Cioè bisogna rimborsare tutto, come quelli dei concerti che si sono messi mezzi d'accordo col governo e praticamente non hanno restituito i soldi a chi ha comprato il biglietto di un concerto e non c'è potuto andare. Bisogna ridare i quattrini alla L'Europa gente. È quello che ha detto, L'Europa esattamente quello che ha detto. No, ha detto, non bisogna dire, bisogna sono agire. I parlamenti degli stati che hanno competenza su questo, ignorante vabbè. Di un ignorante. Allora, l'Italia è il paese dove un signore che si chiama Algero, come sapete, 1727 là come si chiama, fa quello che fa, cioè fratelli, eccetera, eccetera, il solito fratelli, ho fatto il botto, eccetera, ho preso il muretto, eccetera, eccetera. E cosa succede al signor Algero? Pare che gli abbiano ridato la patente, ragazzi. Gli hanno ridato la patente. Ora io sono contento. Sono contento per il signor Algero, perché no, personalmente sono contento. Io no. Però c'è da chiedersi qualcosa. Uno fa un video, fa il botto, guida a 120 all'ora, eccetera. E tu che cosa fai? Gli ridai la patente? Boom, here we come again. Ah, fratelli. Guarda che ci hanno ridato qui, fratelli. Mostra la patente. Il 1727 adesso è di nuovo abilitato alla guida. Direttamente dall'NCC. Sì, ma c'è la macchina, però dillo. La macchina non ce la ridanno, dai. Quello oggi è padre. Torna così, raga, se vi siete salvati alla diretta siete miardati, fratellino! Fratellino, prendi il muro, fratelli! Quello che avete sentito in sottofondo è il padre. È il padre che dice: sì, però c'è la macchina. Cioè, la macchina è rimasta sequestrata, la famosa macchina con la targa, credo, della Repubblica Ceca o Bulgara, non ricordo. Ma comunque, in ogni caso, amico mio, gli hanno ridato la patente. Questa è l'Italia, ma la è tua un Italia. Anche il, volevo la capire, tua ma è Italia. Un criminale anche il padre. Ma cosa fa? Calma con le parole, calma con le parole. Perché devi subito fa? Bollare Chiedo. Come criminale il no, padre? Non voglio di bollare. Non cosa so. Fa il padre? Cosa non lo so, fa? L'altro giorno gliel'abbiamo chiesto, non so. Cosa fa? Dice che lavora nel mondo del commercio, della distribuzione, io non dico niente. Senti qua, fate lì. Dai, vai, va bene. Comunque dici che 17:27 ti ha scureggiato in diretta, fratelli. Questa è lui e la fidanzata pornostar. Porno attrice, diciamo, porno stare un po' troppo. Allora c'è il sindaco di Campiglia, sai Campiglia Marittima, che è quella città dove Come il signor no? nero extracomunitario della Costa d'Avorio di 23 anni ha bruciacchiato un gatto, ha tentato di bruciare un gatto morto, pare che fosse morto quel gatto. Il sindaco, che si chiama Ticciati, che mette in dubbio quello che è successo e fa capire più o meno di centrosinistra questo sindaco che forse dietro c'è il grande complotto della Lega. Il grande complotto della Lega. Però diciamo anche, sindaco, una cosa, cioè in questo video c'è tutta una serie di incongruenze, di cose strane. Per tutto il gatto è carbonizzato, per cui non si capisce come uno possa mangiarselo. Poi c'è una fiammella che non utile neanche a cuocere una zanzara. Sì, Sì, è evidente che ci sono diverse incongruenze o comunque il dubbio, ecco, può sorgere spontaneo. Allora, il sindaco dice ci sono delle incongruenze, poi dice che il video è stato subito ricondiviso da Ceccardi e da Salvini. Sì, però ragazzi, anche qui bisogna portare le prove. O ci provate che è una grande costruzione della bestia di Salvini, no? La grande bestia di Salvini che fa questa grande messa in scena col nero che si mette lì ad arrostire alle 6 di mattina a Campiglia Marittima, mi sembra francamente molto improbabile, molto improbabile. Il sindaco però ci dice, sì, una cosa, che non l'hanno arrestato perché il gatto pare fosse già morto. Altra notizia che io avevo capito subito che il gatto era morto, ho detto subito è impossibile, probabilmente ma è morto, l'ha trovato delle morto. Indagini. No, intuito, cosa hai fatto? Delle intuito, indagini. Intuito. Cosa sei, il commissario intuito, Montalbano intuito, sei? Intuito, ma cosa sei? Intuito. Non c'è certezza su questo video, possiamo dirlo. Diciamo che qualche dubbio è sorto, le indagini stanno proseguendo, il ragazzo ha dichiarato di aver trovato l'animale già morto e quindi diciamo anche Allora Salvini viene accusato di aver detto che puzza perché ha passato due ore e mezzo in mezzo ai meridionali. In realtà credo che si riferisca alla genta, perché parla di gentaglia lui. Il riferimento mi sembra abbastanza chiaro, è a quelli che hanno cercato di non farlo parlare, però la cosa si può equivocare. Senti qua. Puzzo, sì, puzzo. Ecco, se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbe Salvini puzzi, e ci credo. Stai tu due ore in mezzo a quella gentaglia. Allora, stai tu due ore in mezzo a quella gentaglia. È evidente. Secondo me il riferimento non è la gentaglia di Mondragone, credo che sia la gentaglia, se non voglio fare l'avvocato, anche tu però Parenzo, che certamente non sei un salviniano, puoi ammettere che non si riferisce in generale a quelli di Mondragone, credo si riferisca alla gentaglia, a quelli che non l'hanno fatto parlare, credo, no? Che dici tu? Boh, non dici un cazzo. No, questo può anche essere, non lo so, ma sicuramente non è che chi lo contesta puzza, il tema se tu lo fai risentire puzza lui. È giustamente... Puzza no, ho lui, capito, ma chi lui. Lo contesta? Chi lo contesta? Se lo fa civilmente ha il diritto ma di farlo. Ma non l'hanno fatto civilmente, non lo volevano far parlare. Che cazzo dici? E dai, non su. È né puzzone, né puzzone, né un cretino, Daniele, né un criminale. Davvero, è uno che protesta. Certo, uno che protesta ha diritto a protestare. Sì. Sabato se il centrodestra protesterà. Ma che scusami, ma la protesta sabato è una cosa. Se impedire un i atto tuoi di parlare amici del centrodestra protesteranno. Sarai anche tu in piazza. Mi hanno detto che parlerai dal palco. Su che cosa su che cosa interverrai sabato? Ma sabato vado a Formentera. Su che cosa? Diciamolo. Da fermo. Certo, Daniele da fermo. Daniele da fermo. Fammi sentire Daniele. Dimmi Daniele, dimmi. Allora, stasera io volevo intervenire in questa grande soppopera radiofonica chiamando in causa il nostro signor Parenzo. Ma il su che cosa? Su come lo chiama il mio conterraneo Massimo da Fermo. Ma su che cosa? Spiegami. Volevo chiedere come si sente ad aver fatto fuori il suo amico... Il suo ex amico Alberto Gottardo. Beh, questo è un grande tema, ragazzi. Riprenderemo alle 7:15 con questo grandissimo tema. È Parenzo che ha fatto fuori Gottardo da questa trasmissione. Punto interrogativo in grande già. Io so tutto, ve lo dico, so tutto. Sveleremo questo mistero. Fermi tutti. Logica, spazio, tempo. Modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi stai girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male per cazzo? Zanzare marijuana. Carico, sei grandissimo. Sì, sono due settimane che sono carico. No. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Tutto è un trimone! Matteo! Ramelli. Luciani, tu a settembre da bravo torni in via Monterosa 91 Milano e ogni giorno alle 18.35 ti siedi davanti al tuo microfono. Non dovessi farlo, il popolo della Zanzara diventerà il tuo peggior nemico. Farai un partito politico? Non ti daremo un voto. Farai un programma televisivo? Cambieremo canale. Scriverai un libro? Non ne compreremo una copia. Qualsiasi cosa tu farai, te la boicotteremo. Cruciani, tu ormai sei fottuto, tu appartieni a noi, sei nostro e fai quello che vogliamo noi. Cruciani, ma che centro sociale, coglioni e cose, questi qua si impediscono a Salvini di parlare perché per 20-30 anni ci hanno pigliato a piscia in faccia. E quindi mo che cazzo vuole dallo Sud Italia, se stai strava a casa loro. È normale, è normale. E come mai proprio in Toscana con le regionali alle porte si becca l'immigrato di colore che arrostisce un povero gattino davanti a tutti e guarda caso c'è gente lì pronta a filmarlo? Come mai? Quanto ha pagato la Lega questo attore? Quanto? Comunque ragazzi, ammettiamolo, è proprio una peculiarità del terrone quella di offendersi se non gli viene detto che la sua è la meglio città del mondo. Porca puttana, che fastidio, sciacquati la bocca quando parli di Napoli, Caserta, Agrigento, Catanzaro, Racalmuto, Palermo. Ma madonna, siete dei limitati, siete dei terroni. Allora Davide, ti faccio ascoltare una frase di Salvini di ieri, credo che sia sì, di ieri, sì, sì, sulla questione della è una rottura di coglioni poi questo argomento pazzesco, questa legge contro l'omofobia che non serve a nulla, molto perché interessante, se uno molto perché se uno aspetta un attimo, se uno da paese civile, se uno aggredisce barra insulta un omosessuale, ci sono già le norme fatte apposta per condannare le persone. Non è che se uno insulta un omosessuale si becca 10 anni in più, 2 anni in più, l'aggravante, più. L'aggravante non ci deve essere riconosciuto... nessun aggravante. Secondo me, no? Secondo me non ci deve essere, ma non è che per questo sono un omofobo oppure odio i gay. Secondo me non ci deve essere. Sì, secondo non me non riconosci ci deve essere. Perché poi, sai, se uno dice i gay mi stanno sul cazzo, cosa io non dico, non puoi essere condannato se dici i gay mi stanno sul cazzo. Oppure ma perché che ne so, i gay, cosa vuol dire? Ma perché per queste generalizzazioni? Perché attribuire ad un gruppo infatti una categoria? Ma io non e lo allora dico. Ma se anche uno lo dicesse, secondo me non dovrebbe essere condannato a nulla. È semplicemente un cretino. Ma lasciamo perdere questo argomento, perché Salvini ieri ha detto però una cazzata. Ha detto se l'aggressione. Senti, te lo faccio ascoltare, perché ha detto allora mettiamo anche le leggi contro l'eterofobia. Però non c'entro cazzo, perché non è che c'è qualcuno nulla che insulta un uomo in quanto uomo. Ma non glielo dici, no, però. No, ma io non lo sto glielo dicendo dici che ha detto una cazzata. Dici, ma glielo sto dicendo. Non glielo dici? Non glielo dici? Perché è veramente incredibile questo atteggiamento. Ma lo sto non dicendo adesso! Io non ho più parole, cioè non. Perché sei diventato così? Cosa ti hanno promesso? Ma sto dicendo quando che ha detto una cazzata. Se dovessero vincere le regionali, cosa ti hanno il TG2, promesso? Ma dimmelo. No, il TG2. Ah, la direzione del TG2. Il TG2, sì, il TG2. La direzione. Vuoi trasformare il TG2 in un'enorme zanzara? Posso dirti d'accordo, una cosa, benissimo, magari. Benissimo. Posso dirti una cosa? Se mi offrissero sì qualsiasi, e non nessuno per fortuna me lo offrirà, qualsiasi cosa, direi di no a tutto. Ah, a tutto. Che cosa tutto ti hanno offerto? La niente, presidenza di qualche ente? Nulla. Cosa fai all'ente fiera? Dove vai? Che ti hanno promesso? Alle presidente dell'ente fiera? Dove vuoi andare? A RaiCom? A RaiWay? Cosa ti hanno promesso? Che cosa? Per quello che mi riguarda, se viene picchiato, punito, discriminato un omosessuale, un eterosessuale, la via è la galera, però non c'è il pestaggio più grave o l'insulto più grave rispetto a un altro, perché allora a questo punto noi presentiamo un bel disegno di legge contro l'eterofobia. Allora, fino a un certo punto può essere anche condivisibile, cioè non c'è pestaggio più grave di un altro, non è che se io ti pesto e ti dico gay di merda devo avere 5 anni di più. Mettiamo che la legge sia così, ancora non lo so, non lo voglio sapere, per adesso non mi interessa andare nel dettaglio. Però dopo l'eterofobia non c'entra una sega, perché nessuno odia gli uomini in quanto uomini, nessuno odia gli eterosessuali, diciamo, invece c'è gente che odia i gay. Ma sti cazzi, se tu odi un gay in quanto gay, dicendo che un gay è malato, e secondo me non dovresti essere condannato a nulla, sei semplicemente un cretino, ti facciamo parlare, te lo facciamo dire, ti diciamo che sei un imbecille, sei un cretino, ma non è che se dici secondo me un gay è contro natura, pigliarlo in culo significa essere contro, no, è uno schifo, devi essere condannato. Se uno ti dice prenderlo in culo è uno schifo, metterlo in culo è uno schifo, lo condanni? Lo condanni tu, Parenzo, lo metti in galera? Ma certo, ma ti ho detto, o è una lo punisci, gli dai gli fai una multa, cosa fai? Gli faccio, cioè, una multa, secondo te gli la Demari, la De Mari andrebbe condannata? La De Mari andrebbe mandata ai servizi sociali, ma andrebbe condannata a pulire i pavimenti dell'Arcigay, andrebbe condannata a pulire i pavimenti dell'Arcigay. Ma sei con un le copie, coglione, dai, con le vecchie copie della verità, peraltro, ti dico di più, andrebbe condannata, fossi un giudice, la condannerei a pulire i pavimenti, non della, i bagni, i pavimenti delle sedi italiane dell'Arcigay con le vecchie copie della verità, non quelle del giorno, quelle vecchie. Vabbè, è uguale, quelle del giorno e quelle vecchie. Un giornale scade nel momento in cui vai in edicola, è uguale. Allora, eravamo con Daniele da Fermo, se c'è ancora, non so se ci sia ancora Daniele da Fermo, che si chiedeva. Allora, che cos'è che chiedevi? La verità, nient'altro che la verità, tu chiedevi, giusto? Sì, sì, io vorrei chiedere a Parenzo come gli è venuto in mente di minare questa grande famiglia della Zanzara. Sì, di mettere, diciamo, zizzania, sì, nella piaga, non so, no, come di dire. Eliminare, di eliminare quasi fisicamente, sì, diciamo, eliminare quasi fisicamente, messo in moto le sue conoscenze altolocali. Però, no, quello no, ti posso assicurare, quello non lo so. Adesso, quello no. Allora, posso dire però, una cosa? Però, allora, la verità, nient'altro che la verità. C'è stato un litigio, caro Daniele, lo dico al grande popolo della Zanzara che da tempo aspetta una parola su questo. C'è stato un grande litigio in onda che tutti quanti voi avete sentito, tutto vero, nessuna cosa finta. Faremo di ascoltare tutto, naturalmente. Ma dici come tutto? Non facciamo saltare nulla per adesso. Allora, tutto, c'è stato un grande litigio. Si ricostruisce, dai, che fa ascolto, ricostruisce. Il litigio tutto, fa sempre ascolto. Sì. Allora, no, però, ragazzi, c'è stato un grande litigio in onda su temi così, e dopo c'è stato, e anzi, anche durante il litigio, secondo me c'è stato un grande insulto parenziano nei confronti di Gottardo. Devo dire la verità. No, cioè, Parenzo ha trattato Gottardo come un Mauro da Mantova, come un pappalardo. Diciamo la verità. Esatto. Stai, esatto, no. Stai come al solito peggiorando la cosa. No, ma no, ho capito. No, non mi permetterei mai. Di nuovo. No, hai no, no. Su ridicolizzato la figura di Gottardo, sì, hai vero, mandato vero, dei messaggi, non rivela non nulla, hai vero, mandato vero, dei messaggi offensivi a Gottardo, fare culo, no, vero, non solo, vero, non vero, solo, vero. Hai vero, rifiutato vero. Un caffè. Hai rifiutato ma un incontro, sì, certo, a Padova, ma un incontro ma di grande, certo, riconciliazione che io avevo proposto. Ma certo, nella mia poco tempo ecumenicità, ma certo, ecumenicità, no, nella mia nella ecumenicità, nella tua paracularicità. Ma che paraculaggine? Io volevo semplicemente che si riconciliassero due persone. No, no, e ma tu devo dire una hai cosa, rifiutato questo incontro. Sì, hai devo rifiutato una cosa, devo dire una cosa definitiva. Devo chiedere scusa. No, di nuovo, dai, no, no, no, no, davvero, perché non si fa. Non si fa. Non si tra. No. Non si dice che è un morto di fama, non lo si attacca, no, non si può dire che in maniera Shrek, vergognosa. Lui avrà commesso degli errori sicuramente. Lui avrà detto delle cose fuori posto. È una persona in difficoltà. No, no, adesso stai peggiorando come al solito. Le persone in difficoltà vanno aiutate. Non te lo permetto. Non si può fare. No, ma no, infatti lo hai ridicolizzato in onda e in più gli hai mandato dei messaggi violenti. A chi ha difficoltà non si fa. Non si fa. A chi ha difficoltà non si fa. Daniele, a chi dai ragione? È brutto. Sul suo sovrappeso. Giusto, gli hai dato no, del fanzone non si fa. Devo chiedere scusa. Non fare il paracolo. No, no, no, ma è vero, è vero. Rimane su tutto, questo devo chiedere tutto. Sì, sì, ma infatti su questo devo chiedere scusa. Chi ha difficoltà non va di non va deriso. Vai a cagare. Beh, quello, Angelo quello da Torino, dubbio. Angelo da Torino, Angelo, basta. No, ma mi dispiace per Pappalardo più che altro. Angelo da non vorrei che Pappalardo querelasse. Insisti, insisti. Ma no. Dimmi, Angelo, dimmi. Ma perché c'è questa acrimonia? Perché? Il suo compagno di Marente Franceschini che sì, ha sì. messo ma che cosa sui concerti che... sui concerti dici? No, parlavo dei voucher di inizio trasmissione, non lo so ragazzi, io chiunque non vacanze so di chi è la responsabilità per le cose delle no vacanze. Non c'entra niente le vacanze, è la questione I dei bonus. Rimborsi dei rimborsi degli aerei, esatto. Dei rimborsi, esatto. Ragazzi, io non so chi sia responsabile, sono voucher, sicuro che l'agenzia no, la prima cosa sono sicuramente le compagnie di linea, le compagnie aeree, le compagnie aeree sì, devono rimborsare i quattrini, esatto. Senza rompere i coglioni, che è quello che dice l'Europa. Non lo so, so, l'Europa deve fare, non deve dire. Ma non lo sai, perché non sai. Fermo. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Pronto? Sì, pronto, mi sente adesso, signora? Sì, mi dica. Io mi chiamo Giuffrida, signora. Stiamo parlando con le persone dove possiamo trovare conforto, vero conforto. Secondo lei dove possiamo trovare? Nella figa! Che fica tutto bene, parenza. Fica, fica, fica tutto bene, parenza. Nella figa! Fica tutto bene, parla di figa. Fica, fica, fica tutto bene, parenza. Fica tudo bem, baby, coletto. Fica, fica, fica tudo bem. E leccatele la figa. Vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta, tanta, tanta paura? Cosa? Mamma mia, Francesco, contro l'evasore fiscale Vissani che va in televisione a far propaganda pro Lega perché il governo non dà i soldi ai ristoratori. Sì, cazzo, ha ragione, non li dà per la gente di merda come te che non paga le tasse e che è passata in giudicato e quindi è definita evasore fiscale. Ciao Vissani, ex chef, oggi evasore fiscale. È una domanda. Amico mio, ti faccio una domanda. Rivolta a zio Crucio, no? A Recchione di Parenza, che ovviamente quello pugnetto. Allora, giusto. Senti, Crucio, senti. Io sono accompagnato da una fanciulla che è... Da poco tempo. 2 anni, che pretende di scopare almeno 2 volte al giorno. E io una domanda te l'avevo fatta diverso tempo fa, ma non mi avevi risposto tanto bene. Non mi credevi. Questa è convinta che deve scopare 2 volte al giorno, che è normale, è un problema. Vero? Tu pensi che è normale? Nella media, no. Non normale. Secondo te, questa è la domanda, un grande sondaggio per la Zanzara. Sì. Ma dopo 2 anni, quante volte bisogna scopare al giorno? O a settimana? Per favore, diglielo tu che non è normale. Non ce la faccio più. Dai, su. Dai. Ciao. Ciao. Allora, amico mio, io capisco la tortura, capisco la pressione che puoi subire ed effettivamente non è normale, no? Cioè, anche 2 volte a settimana dopo 2 anni sarebbe quasi innaturale, però ci può stare. Dopo è 2 anni... normale, è normale. No, non è normale, no, non è normale, inutile che mi mettete. Dopo 2 anni, 2 volte a settimana già siamo ad una situazione in cui uno, cazzo, significa... Che reggi, che la storia regge, che non hai distrazioni. 2 volte al giorno, no, 2 volte al giorno anche sarebbe fisicamente impossibile. Cioè, anche se uno volesse, sarebbe impossibile 2 volte al giorno, no? Se uno lavora, se ha dei pensieri, dopo 2 anni. Dunque, cioè, amica mia, smettila di fare pressioni sul tuo fidanzato, bravo. Non rompere i coglioni, andate con una media tranquilla, secondo me molto tranquilla, anche perché poi a un certo punto, se uno spinge troppo, e le cose si esauriscono. Dopo 2 anni, secondo me, 4 volte al mese, 1 volta a settimana può andare mamma tranquillamente. Mia. 4 volte mamma al mese. Mia, mamma mia, che clima! Ma poi mamma ognuno mia, fa quello che vuole, ognuno fa quello che vuole, ma è evidente, sì. No? Ma... Questa... ma che abbiamo recuperato per caso un Feltri, eccetera? Perché l'Agicom, questa fantomatica Agicom, lasciamo perdere che la gente poi non sa quello cos'è. Sa cos'è, diciamo, l'Agicom, non la sa, gente nessuno sa, norma... sa vai cos'è nel l'Agicom, bar, sa che cos'è l'ANAC. Domani facciamo un sondaggio. Facciamo un sondaggio. I telespettatori della 7 lo sanno, ma questi ma salami che ascoltano la Zanzara non sanno un cazzo. Questa è la differenza fondamentale. No, scusa, ho sbagliato. Ecco, metti in sala. No, non quelli che ascoltano. Ho sbagliato. Quelli che chiamano, non quelli che ascoltano. Allora, quelli posso che ascoltano dire una cosa, con Zanzara posso dire una cosa. Questi qua hanno diffidato. Che poi queste cose la diffida. Ma cazzo, ma fatelo un provvedimento. Volete diffida. Punire qualcuno? Punitelo, non rompete i coglioni. La diffida, le procedure. Ma vaffanculo. Diffida, sì, punite. Se avete il coraggio, se pensate che quelli siano dei razzisti, puniteli, cazzo. La diffida. Hanno diffidato. Ma che cazzo vuol dire? Comunque hanno diffidato Mediaset e il conduttore Giordano, eccetera, per la famosa frase per la famosa frase considerata hate speech. Hate speech, discorso d'odio, hate speech. Sì, sì. Ma dai, su hate speech feltri. Hate speech che ha detto i meridionali inferiori, sì. E si riferiva peraltro, come sapete, certo, all'economia. Certo, che cos'è? Comunque. Ma anche all'economia. Questo lo dici tu? Questo lo dice lui, l'ha detto lui dopo. Perché siccome non ha il coraggio di prendersi le responsabilità di quel che, della follia che ha detto, ti dice attacca no, anche su in onda, ti attacca anche su in onda, sprombattuto. No, ma lo ha fatto tutti, lo ha fatto tutti gli anni, dai, figuriamoci, dai, anzi, dai, mi diverte. Dai. Ma fammi risentire quel pezzo, Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti, perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. E adesso me li fai arrabbiare davvero? No, direttore, non puoi dirlo questo. E chi se ne frega, si arrabbiano. Ma chi se ne frega se si arrabbiano? Poi, secondo me, si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire. Ma io cambiano canale, è un guaio. Direttore, se mi cambiano canale è un guaio, però. Ma no, anzi, quando io dico queste cose non cambiano canale, stanno lì di più per odiarmi maggiormente. Vabbè. Io non so poi quando Feltri abbia spiegato, abbia detto, perché in realtà ce la siamo vista brutta anche noi. Possiamo dire che ce la siamo scampata, per cara Davide, l'abbiamo per una scampata. Volta, per una per volta una se volta, la sono presa con Mediaset e non con se noi. Se la sono presa con Mediaset. Perché la sera prima, la sera, esatto, la sera stessa, l'aveva detto qui la stessa cosa. No, ma sai qual è non la verità? Voglio suggerire alla Gcom, non voglio suggerire alla Gcom. Ma posso dirti qual è la verità? Cos'è? È che ormai questa trasmissione ne produce talmente tante, sì, vero, che ci dovrebbe essere un magistrato dedicato per ogni procura della Repubblica, e questo è l'invito che faccio, a prendere nota di quello che viene detto in questa trasmissione. Trasmetti gli atti in tutte le procure italiane e poi fare una maxi qualcosa. Procura, fare una maxi procura come quella con antimafia, fare una maxi procura con un maxi processo in cui vengono messi a processo tutti i protagonisti della zanzara che tu hai creato, che sono il generale Pappalardo, Gottardo, il demone Scimmia, tutti sotto processo, il maxi processo della zanzara. Ah, come tu condannato alla pena suprema, certo, condannato alla pena suprema. Diego da Cremona, io faccio un appello alle autorità competenti a indagare e a chiudere questa trasmissione, e faccio presente che questa è l'unica trasmissione in cui uno dei due conduttori ne chiede la chiusura. Può sembrare un paradosso, ma in realtà è così. Anche l'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, perché non apre un fascicolo su tutte le marchette di Cruciani e dei regali che Cruciani riceve dal QC Terme di Mine? Faccio nomi e cognomi, mi convochino in procura, io vengo a testimoniare. Vengo a testimoniare, vengo. Allora, qualche giorno dopo, non mi ricordo se due giorni, mi dicono cinque, ma io mi ricordo forse in un articolo il giorno questo dopo, Feltri disse questo, che in realtà si riferiva alla questione dell'inferiorità economica. Le sue affermazioni sui meridionali hanno scatenato un putiferio. Sì, perché la gente non riflette. Io voglio dire, mi riferisco al portafogli, non certo al cervello, anche perché io non faccio i test di intelligenza a nessuno, non sono in grado di farli. E poi conosco tanti coglioni anche nella Bergamasca, dove io sono nato, quindi so benissimo che non si possono valutare le persone dal punto di vista morale e culturale. Vabbè. Diego da Cremona. Diego, buongiorno. Dimmi, volevo dimmi. Dire un paio di cose. Dimmi. Allora, innanzitutto volevo dire che nonostante io sia convinto che i gay secondo me sono un pochino deviati. Come sono deviati? Non ho capito. Ecco qua. Come ecco. Sono deviati? I gay sono deviati. Che vuol dire che sono deviati? Deviati nel senso qua. Che secondo me è una cosa innaturale e secondo me sono... Per chi vota lei alle elezioni? Scusi, faccia capire un attimo. Non sono cazzi in suoi. Modo preliminare. No, ma in modo preliminare cerchiamo di capire per chi ha votato le scorse elezioni. Ma questo elezioni, che c'entra adesso? Non ho votato. Diego, non ho capito, perché sarebbero deviati e innaturali? Spiegami, perché sarebbero deviati? Secondo me sono deviati innaturali perché l'uomo è fatto per piacere alla donna e la donna è fatta per piacere all'uomo. Ma se uno gli piace il cazzo e se la donna gli piace la figa, qual è il problema? Se una donna piace la figa, qual è il problema? A chi dà disturbo? Ma non c'è nessun problema. Perché dovrebbero essere deviati e innaturali? Io non ho detto che mi danno disturbo. Però tu dici che sono innaturali e deviati. Questo è un caso simbolo, però, perché Diego dice è un coglione, secondo me, perché dice che sono innaturali e sono deviati. Non c'è dubbio, è un coglione, secondo me è un coglione. Meno male. Però meno va male. Condannato? Va condannato o va multato? No, sì. No. Sì, va multato. È libero. No, dovrebbe questo, essere libero questo, di dire no, che i gay sono innaturali, che i gay sono signore, contro natura. Assolutamente. Libertà per Diego, che è un coglione. No, che è un questo coglione. Appunto, questo signore che ha chiamato andrebbe condannato non tanto al carcere quanto a pulire i bagni dell'arcigay d'Italia. Questo dovrebbe fare con le copie del quotidiano Libero. Questo sarebbe adesso la punizione. Libero, io fossi un magistrato adesso il turno di Libero. Io penso che sono innaturali perché per l'esperienza che ho avuto io, nel senso, per tutti i gay che ci hanno provato con me, o che cazzo vuol dire? Ci hanno provato e gli hai detto no. Non appunto. Ho detto, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Che cosa vuol dire? Hanno provato con te? Dicendo, non ho capito. Stavo dicendo che tutti i gay che conosco sono persone che sono diventate gay per esperienze negative. Ma sono, che cazzo dici? Uno diventa. Ma come fa che uno a dire uno naturale. È gay perché gli piace il cazzo o perché le piace la figa? Ma non è complicata la cosa. Non è così. Non è una cosa così astrusa. A un uomo ci sono certi uomini cui piace il cazzo. Ci sono certe donne cui piace la figa. Punto e basta. Gli piace più la donna piuttosto che sono attratti. Ecco, mettiamolo in maniera un po' più soft. Oltre al cazzo e alla figa, ci sono uomini attratti da uomini. Ci sono donne attratte da donne. Ma è normale che sia così. Dov'è il punto? Tu, però, sei da coglione, ammesso, cioè ti è consentito, ti deve essere consentito dire che sono innaturali, che sono contro natura. Io dico questa lo cosa devi qua, dire, non ci deve essere una legge del cazzo che ti condanni per questo. Sì, però devo dire che il 100% dei gay che conosco sono persone che sono, tra virgolette, dei rimasti, che secondo me non sanno dove... rimasti, fra virgolette, che non sanno dove andare Cremona? A sbattere la testa. Che vuol dire dei rimasti? Ma sei e conosci tu il tuo micromondo, non conta un cazzo. Il tuo micro, la gente che conosci non conta una sega rispetto alla, a quello che succede nella normalità. Nella normalità succede quello letto, che ti ho detto avevo io. Avevo anche letto in libro di psicologia. Ma hai letto un che libro è di psicologia? Anche, che libro non mi ricordo, è? Però che ho letto anche in dei libri di psicologia che non è una cosa naturale. Ma i libri di psicologia quali? Degli anni 30, ma quelli di Hitler, quali del nazismo? Quali? No, in realtà ricordo, lo dicevano anche, letto, lo dicevano anche negli anni 70. Vai, Giuseppe da Roma, vai. Giuseppe, dimmi. Dimmi, Giuseppe, dimmi. Pronto? Oh, Giuseppe, ma dimmi. Ma che è sta legge del cazzo? No, calma. Non esiste proprio, no. In che senso ma sei, non esiste? Sai le tue esigenze, sai le tue... perché deve essere una legge a parte? Esigenze forse sarà il contrario. L'esigenza di chi? Io ho un mutuo, devo dimostrare che c'ho sul conto corrente dall'altra banca il doppio di quello che c'ho. C'ho un amico gay che ha preso lo stesso mutuo perché conosceva un funzionario gay. Come si chiama? Questo? La PNL della filiale numero 8 giri. Ma che è sta camorra? No, non ho capito allora, perché secondo te tu che vuoi essere avvantaggiato. No, ma non ho capito, Giuseppe. Secondo la tua teoria ci sono i gay che sarebbero avvantaggiati, ma cioè sarebbe la lobby gay che avvantaggia i gay anche con i mutui. Ma non finire con queste cazzo di storie, no? No, ma che io sono contro questa legge. Ma nei confronti degli altri solo perché a te ti piace una cosa rispetto a un'altra. Ma no, ma amico mio, ma che c'entra il mutuo? Ma che c'entra il mutuo? Che c'entra il mutuo? Spiegami, che c'entra il mutuo? Sto facendo solo un esempio. Ma l'esempio non c'è di che? Non bisogno di nessuna storia, nessuna legge particolare per questa gente. Ciao, per Giuseppe. Questa gente che c'ha questo. Allora, caro David, abbiamo già detto che oggi è un giorno di lutto per me perché non c'è il Palio di Siena. Un giorno complicato, difficile da sopportare. Oggi ci doveva essere il Palio di Luglio. Bravo. Palio di Luglio, giorno straordinario. Io dovrei essere lì, peraltro, a festeggiare con la nobile contrada dell'Aquila. Perché oggi c'era la Zanzara, dunque col cazzo che avrei, sei stato avrei festeggiato. Beh, avrei festeggiato mandato a distanza, fare in culo alla Zanzara, ma... ovviamente, per vedere per il Palio andare... di Siena. Cioè, no, questo non l'avrei fatto. Allora, ti avrei fatto una grande radiocronaca da Siena. Non ce ne frega un cazzo a noi. Io chiamerei un signore di un'associazione animalista che conosciamo, che si chiama Walter Caporale. No, per carità. Signor Caporale, dai. Caporale. Pronto? Caporale? Sì. Oh, eccolo qui, Caporale, uno dei più grandi animalisti italiani. Tu sei uno di quelli che sta esultando perché oggi il Palio di Siena non si corre. Ma io sto esultando, sono felice, così come sono felice quando vengono sospesi attività che danneggiano gli animali, possono provocare la morte degli animali, no? È fatto apposta per ammazzare i cavalli il Palio di Siena. Ma che dici? No, il Palio di Siena che si svolge in quella piazza ha provocato la morte di decine di cavalli. Allora, se noi parliamo mai? Di tradizione... Ma quando io non lo so mai? Quanti cavalli siano morti o no. no. mai. Quindi il cavallo che è morto ma l'anno è una scorso, tragedia è morto ma per il senese è una tragedia la morte del cavallo. I senesi amano i cavalli, li amano. Ma certo. Lo sai che io credo che anche per lo stupratore sia una tragedia la morte della donna. Ma che paragone idiota, che ma paragone idiota, vergognati. Il pedofilo il bambino lo ama, carissimi miei. Ma cosa dici? Tu stai paragonando il pedofilo, muore il bambino, il pedofilo è triste, no? Tu stai paragonando i contradaioli a pedofili e stupratori, ti dico solo questo. Io sto paragonando, stai paragonando quelli che sfruttano gli animali a degli assassini, semplicemente come è la storia. Ma tu sei pazzo, perché i contradaioli e di Siena, tu li hai paragonati Cruciani, ma i bianchi che liberavano illegalmente i neri durante la schiavitù erano criminali o no? I bianchi che liberavano, non credo. Cosa c'entra? I bianchi che liberavano, non ho capito. Le che tradizioni cambiano a seconda delle epoche. La schiavitù era una tradizione, no? Oddio, la tortura era una tradizione. Tu stai paragonando. Non torniamo alla cosa di prima, che è incredibile. Io non l'ho mai sentita una cosa del genere. Tu stai paragonando i contradaioli. Ci sono anche le persone che dicono che gli animali sono esseri inferiori a oggetti nel 2020. A parte che gli animali sono esseri inferiori quasi per definizione, perché ovviamente sono esseri inferiori. Ma questo non vuol dire nulla. Vanno protetti ancora di più. Definizione tua. Al di là della questione dell'inferiorità o no. Tu hai paragonato i contradaioli di Siena a degli stupratori e a dei pedofili, chiaro? Io sto dicendo che chi si diverte sulla sofferenza praticamente quello è sicuramente un sadico. Che le tradizioni cambiano a seconda delle epoche. Altrimenti tu devi giustificare la schiavitù nel terzo millennio, devi giustificare la tortura. Ma non dire minchiate. Il cavallo è fatto per correre, il cavallo è fatto per competere, per correre e anche per morire. Lo benedicono in chiesa il cavallo. Lo benedicono in chiesa il cavallo. Fanno correre libero nei parchi, non in una città. Ma libero degli mortacci tua. Ma libero degli mortacci tua. È libero il cavallo. È libero di correre il cavallo. Quando l'anno scorso è morto un cavallo, cosa hai fatto? Ma chi se ne frega, è morto un cavallo, pazienza. Ma certo, hanno pianto. Hanno pianto i senesi. Quando muore un bambino, che dici? Stai paragonando un bambino a un cavallo? È già sbagliata la partenza. Un bambino, un cavallo. Ma invece, come te, come me, ma certo, ma vanno protesti. Certo, è una tragedia. Non rispetta gli animali, non rispetta neanche i bambini e le donne, caro Cruciani. Hai paragonato un senese, un contradaiolo, uno che organizza il palio, la città di Siena, a una manica di stupratori. Io ho detto soltanto che ci dobbiamo evolvere, caro. No, hai detto un'altra cosa. Non è che l'uomo deve rimanere dunque all'età della pietra. E dunque chi organizza quando il palio è un incivile. L'uomo stuprava la donna, la picchiava, appunto, la violentava e la dunque uccideva. Chi organizza un palio, il palio è un incivile. Chi organizza il palio è un incivile. Ma perché durante l'impero romano i romani che facevano? Non stupravano, non uccidevano le donne, i bambini, i prigionieri, gli ma che paragone del cazzo è? Che paragone del cazzo è? Non lo faccio io, caporale, sei un somaro. E quando tu uccidi un cavallo sei un assassino. Allora spostati, allora sarebbe punito. Invece tu ti diverti. Ma chi si diverte? Ma chi si diverte quando muore un cavallo? Nessuno, uno si diverte al palio a vedere la corsa. Il cavallo è un essere inferiore. Io certo che è inferiore, certo che è inferiore, non c'è dubbio che sia inferiore. Ma perché non ti, se fosse uguale a te, perché non ti sposi con un cavallo? Perché il cavallo non può diventare presidente del consiglio? Vanno protetti, vanno protetti ancora di più. D'America, mi devo sposare un nativo d'America? No, vanno. Come io rispetto non hai capito. Mi devo sposare con un africano? Che vuol dire? Non hai capito. No, il paragone sbagliato è il tuo. Sei tu a fare un paragone sbagliato. No, la cosa è molto semplice. Allora, 24 cavalli morti nel palio di Siena negli ultimi anni. Che cosa sono? Ancora. Crimine o no? Ma quale crimine? Ma sono incidenti di percorso di una cosa meravigliosa, drammatici di una cosa meravigliosa. Mi dice che tutti gli assassini, i serial killer, iniziano stuprando gli animali, uccidendo gli animali e poi passano alle donne e ai bambini. Sì, ma non mi... questo è vero o no? Ma non mi sembra che a Siena ci sia un tasso di serial killer superiore rispetto al resto d'Italia, amico mio. Cioè, non è che ci sono un numero di assassini. Ma analisi di che cosa? Non esiste questa roba qua. Se tu giustifichi l'uccisione di un cavallo, mi immagino che non giustifico l'uccisione. Ma non lo giustiziano. Giustificato. Il ragazzo che si è divertito a 14 anni a giocare con un riccio a pallone, perché non ha fatto niente di male in fondo? Ma come no? Quello ma quello è un criminale, quello ma quello è un criminale. Come l'immigrato dell'altro giorno, se è vero che ha preso il gatto, l'ha ammazzato, anche se ci sono dei dubbi, e l'ha cotto, non c'è dubbio. Io dico però che c'è una differenza tra un gatto e una mucca, invece per te è tutto uguale. Tra un gatto e un cavallo c'è una differenza oppure sono uguali per te? Non ho capito. Qual è la differenza? Qual è la differenza, scusami? Io la capisco. Sofferenza è uguale. Io la capisco. La sofferenza è uguale. Io un animalista lo capisco. Io un animalista lo capisco. Il dolore che prova il cavallo è lo stesso dolore che provi tu, caro Cruciani. Cioè tu stai dicendo, io provo dolore a sentire delle stronzate come queste. No, aspetta, io provo dolore. Vacci tu a correre nel paio di Siena. Ma non sono un cavallo, ecco la differenza. Non sono un cavallo, cazzo. Lo vuoi capire o no che tra Walter Caporale e un cavallo? Il cavallo lo facciamo correre in un ambiente adatto. Ma i cavalli hanno corso dappertutto, amico mio. Non in una piazza pericolosa. Ma è pericolosa alcune volte, come succede nella vita, come nella vita. 24 cavalli, 25 cavalli non sono nulla per te, uccisi negli ultimi 20 anni. Purtroppo sono morti, ma sono, come dire, degli effetti collaterali. Quindi che qualcosa va rivisto. Stai paragonando, lascia perdere. Tu giustifichi tutto. I cacciatori siano santi i cacciatori, assolutamente. I cacciatori sono dei santi e rispettano gli animali molto più di te. Posso dirti una cosa? I cacciatori rispettano gli animali, certo. Molto più di te. Lo stupratore rispetta la cosa che stupra. Ancora una volta, stai paragonando gli stupratori ai cacciatori. I cacciatori agli stupratori. A uccidere esseri indifesi. Dunque è un sadico stupratore, come un sadico stupratore. Il cacciatore, certo, perché si diverte a uccidere esseri che non si possono difendere. Ormai perché no. Il cacciatore non viene a sparare a me? Perché non facciamo una competizione? Ma perché c'è una differenza tra un uccello e un uomo? Dov'è lo sport, tra il volatile, non l'uccello, quello che hai in mezzo alle gambe. È competizione ad armi pari, caro Cruciani. Non è vigliaccheria di io che possiedo un fucile e l'animale che è indifeso. Vabbè, vecchia teoria. Le vigliaccherie le giustifichi. Dunque, tu. Per te non c'è nessuna differenza tra chi arrostisce un gatto per strada e chi organizza il palo di Siena. Per te sono uguali. Ma perché non c'è più? Ma veramente non c'è differenza. Siamo nel 2020, siamo nel terzo millennio, non siamo nel 1800. Vostro onore, come direbbe Parenzo, vostro onore. Non ho più. Io dico in genere non ho altro da aggiungere. Ma qui dico, levate il vino. Quello che voi seminate produce odio e violenza sui più deboli, sempre. Quando voi paragonate gli animali a esseri inferiori. Ma non inferiori, hanno bisogno di protezione. Ma sei pazzo, hanno bisogno di maggiore protezione perché sono inferiori. Di maggiore protezione. Ma è il contrario. Sono inferiori. Chi te l'ha detto? Ma la biologia non l'hai studiata? Ma mettite con cavallo. L'evoluzione della storia non l'hai studiata? Ma gli esseri inferiori. Darwin, ma... chi era Darwin? Era un coglione qualunque. Non ne posso più. Ciao Walter. Ciao Walter. Ma non difendere l'indifendibile. Ti devi vergognare per quello che hai detto. Vergognare. Ma dovete vergognare voi che continuate a dire che gli animali sono esseri inferiori. Io dalla parte mia c'ho pure la Chiesa. Certo. Sono orgoglioso. Perché Papa Francesco ha detto che dobbiamo avere. Ma chi se ne frega? Sono ateo. Non me ne frego un cazzo. Io sono credente invece, a differenza vabbè, tua. Pazienza, mica sei superiore. Fermo là, ciao. La Zanzara. Giuseppe, amico mio, ma io ti stavo ascoltando 3 minuti fa, amico mio. Ma non si possono fare tutte queste domande da una signora prostituta. Tu devi sapere, Giuseppe, che loro sono molto permalose. Cioè, praticamente non ci fare troppe domande. Quando pigli, quando fai, culo, tette, fregna, pecorina, 84, 94, 2005. Giuseppe, lascia parlare me. Io le conosco molto bene. Tu innanzitutto, Giuseppe, valuta l'immagine. Una volta che hai valutato l'immagine, poi alla signora gli fai al massimo 2 domande. Uno, quando piglia? E secondo, Giuseppe, secondo, se lo fa senza o con preservativo? Amico mio, ma no, troppe domande, amico mio! Le puttane sono permalosissime! Karma, hai perfettamente ragione, le prostitute sono molto permalose ed effettivamente Lalla ce l'ha dimostrato. Adesso, caro Davide, ti farei ascoltare, a me fanno impazzire questi personaggi, sì, ogni tanto sì. Fanno impazzire i gay pentiti, cioè quelli che dicono di essere stati gay, di aver avuto rapporti omosessuali, di avere un passato di omosessualità, eccetera eccetera, poi a un certo punto hanno incontrato Dio tipo la, come si chiama? Come si chiama? La Nausicaa della Valle, no? Hanno incontrato Dio. E improvvisamente ci hanno ripensato. Ma che cazzo vuol dire che ci hanno ripensato? Cioè, Dio, l'omosessualità, si sono convinti che è un peccato. Senti questo qua che si chiama Bizzola di cognome, senti. Da quando io posso ricordare, avevo delle tendenze diverse dal punto di vista sessuale. Cioè? Avevo tendenze di tipo omosessuali. Poi? Una sera sono stato visitato da alcune persone molto semplici, una donna missionaria in Africa, che mi predicò il Vangelo di Gesù Cristo. Ho sentito fisicamente come un fuoco consumante la presenza di Dio nel mio cuore e in un lampo, perché ero perverso, bestemmiavo, andavo dietro ai demoni, ero un violento, tutte queste cose, è finito tutto in quel momento. E anche l'attrazione per gli uomini, quindi esattamente, è stata spazzata via in un lampo. E tutto questo perché ho incontrato, ho compiuto il mio bisogno attraverso l'amore di Dio. Ah, io non ho capito, che c'entra che uno è violento e bestemmia col fatto che aveva rapporti omosessuali? Ha messo tutto insieme, a un certo punto ha incontrato Dio e ha cancellato le bestemmie, la violenza, l'omosessualità, eccetera. Allora, senti. Mi sono normalizzato e ho cominciato a sentire le pulsioni. Normalizzato. Io posso anche morire oggi e muoio felice perché la mia vita appartiene a Dio. Ma e muori felice, che ti devo dire? Se pensi che la tua vita appartenga a Dio, ma che vuoi che ti dica? Ma fai quello che ti pare. A me pare assurdo che uno metta insieme tutte queste cose, cioè l'omosessualità, la violenza, non so che altro. A un certo punto arriva Dio e cancella tutto, come se l'omosessualità forse fosse un peccato mortale, fosse una cosa da cancellare, paragonabile alla violenza. Ma dai, su. Alberto da Treviso, vai Alberto. Ti ho chiamato perché stavo tornando dal Welcome. Sono entrato in frontiera, mi sono sintonizzato come tutte le sere su Radio 24 perché io faccio l'agente di commercio. Quindi tutte sì, però Alberto, ti devo sentire meglio perché ti sento poco, amico mio. Cioè, ti sento basso, ti sento distorto, devi togliere, come al solito, l'auricolare, viva voce, tutto quello che hai. No, mi senti adesso? Pronto? Più o meno, dai, dimmi. Ieri sera sei stato al Welcome, giusto? Sì, poi rientrando in Italia mi sono sintonizzato e purtroppo ho sentito che il tuo argomento non era l'apertura di bordelli in Austria. Ma beh, no, adesso ne abbiamo parlato a lungo, amico mio, della riapertura dei bordelli in Austria. Cioè, ha riaperto ieri, per fortuna. Come è andata? Sei andato? Sì, è andato bene, però con questa storia dell'immigrato, veramente. Tutto benissimo, era strapieno di gente, non si riusciva a parcheggiare. Bisogna entrare con la mascherina, come si entra nei bordelli? No, all'ingresso del parcheggio misurano solo la febbre, sì, che è tanto inutile, totalmente inutile. Una procedura, un'altra delle procedure assurde, totalmente inutili, sono le persone che misurano la febbre. Ma che cazzo misuri la febbre? Nei supermercati, nelle aziende? Ma che cazzo vuol dire? Certo, per vedere se uno c'ha la febbre. Ah, ma che stronzata. La febbre se ne sta a casa, ma per figuriamo forza. Ma uno sta a casa, c'è comunque una cosa che uno... si chiama COVID, ma no, invece ci sono quelli che vanno, ma che c'è sta cosa una della, cosa la, che la si misurazione chiama della COVID. Febbre, io sono sicuro che non c'è una persona fermata all'interno di un'azienda perché ha 37,8, 30, non esiste. No, secondo me non qualcuno esiste, è stato fermato, ma certo, chi è stato fermato, chi stato cazzo ci va in ufficio con 37,8, dai, ma che cazzo vuol dire? Poi dai, dimmi Alberto, basta, allora non prendiamo nessuna misura e freghiamoci. No, la febbre, ho detto misurare la febbre è uno dei sintomi, ma grazie è uno al cazzo, ma non funziona così, ma che tu misuri la febbre non in un'azienda. Va al lavoro con la febbre, ma chi te? Ci va, la gente non va al lavoro con la febbre. Ma in tutto il mondo la misurano la febbre comunque, ma sono quelle cazzate una... che si fanno così tanto per farle. Alberto, dimmi allora come funziona là, ti misurano la febbre, poi basta, si entra, è tutto normale come prima. Ci sono quelle ragazze, qualcuna ha qualche chiletto in più riposo, ma per il resto è tutto normale. Cioè, mi stai dicendo che le ragazze hanno messo un po' di chili in più durante il Covid? Sì. Durante il lockdown. Sì, perché sai che sono rumeni e ungheresi, stanno rintanati in casa, mesi senza fare un cazzo. Quindi. Quante te ne sei fatte, Alberto? Quante te ne sei fatte? Due, hai fatto la doppietta? Sì. La doppietta. Che porcheria, che sporcaccione. Ma questo sporcaccione, è un rappresentante di commercio che da Treviso a un certo punto. È uno sporcaccione, per me è uno sporcaccione che non si vergogna peraltro di fare una cosa ignobile che è quella di andare a Bosnia. Eravamo in due, anche il mio consulente legale di Padova. Se si deve pure vantare di questa porcheria, no, è come se vantando. Uno si vantasse di fare una rapina. È come se uno chiamasse e dice: sono evaso il fisco. Stai dicendo che quelli che vanno nei bordelli sono dei rapinatori. È come se uno si vantasse di una. Dice: io ho evaso il fisco. Cosa diresti tu se uno chiamasse e dice: Visto che sono qua, volevo proporti una cosa. E da mesi che cerco di chiamarti, io vorrei. Però mettiti bene con sto cazzo di telefono, sì. Alberto. Io voglio sentire bene. Fermati, fai quello che devi fare, sennò ti sento male. Allora, mi senti adesso? Pronto? Più o meno, dai, dimmi. No, volevo dirti. Io vedrei interessante introdurre la quota rosa sui barconi degli immigrati. Cioè le quote rosse sui barconi, ma è interessante questa cosa qua, cioè, che vuoi dire? Non ho capito. Cioè secondo te chi prepara i barconi, cioè dire i trafficanti di esseri umani, dovrebbero in qualche modo inserire le quote rosa? Perché le tu quote dici? Rosa, perché? Con l'aiuto della Boldrini, non so, di Barbara Fusani. Ma no, quelli non vogliono, quelli in generale non vorrebbero che le donne venissero qui e poi fare le prostitute. Sfruttate. Ma perché perché vuoi le quote rosa all'interno dei barconi? Spiegami. Per gli immigrati, questi poveri ragazzi non è che possono venire con noi a welcome, ma anche loro avranno il diritto di portarsi qualche donna, no? Così è. Ma cosa dice sto scemo? Ma lui sta dicendo che possono venire. È talmente scemo che ironizza pure sul dramma dei migranti. No, cioè è scemo dramma, perché telefona per dire che va a prostitute, di questo si dovrebbe vergognare. E poi è anche scemo, quindi è scemo al cubo, perché in più chiama per dire che ci dovrebbe essere le quote rosa sui barconi, quindi è scemo perché va a prostitute. E in più ironizza sul dramma dei migranti. Ma mi sembra naturale, no? Promuovere una quantità equa di maschi e femmine. Cioè lui ho capito, ma non lo può fare nessuno, però siccome questi qua vengono imbarcati dai trafficanti o da chi organizza questi barconi. Magari la signora Boldrini è pratica. Ma che c'entra la cose? Boldrini? Mica organizza lei i barconi, cioè non è che li organizza lei i barconi. Ma spiegami un attimo una cosa. Torniamo a Welcome. Perché Parenzo ha una tesi assurda. Uno può contestare in generale uno che va a prostitute, no, vabbè, tu dici che è un miserabile, ma tu dici che è come un rapinatore, ma come cazzo si fa? Dai. È come uno che evade le tasse, uguale. È tutto legale. Ma sappiamo infatti che è tutto legale, lo sappiamo. Ma certo che è legale, ovvio. Non c'è il limite che neanche in contanti in Austria. Sì, ma ho capito, ma non è un rapinatore moralmente è come uno che non paga le tasse. Lasci stare il reato di evasione è una cosa, ma c'è l'aspetto, come dire, penale, ma oltre l'aspetto penale c'è anche l'aspetto morale dell'evasione, perché no? Tutti quelli che vanno in un bordello in Austria e in Svizzera sono tutti dei rapinatori. L'aspetto morale della cosa, l'aspetto morale di un signore che sfrutta le donne, le paga per i suoi piaceri sessuali. Ma tutto che qua. Cazzo, no, dice no, lei. No, ciao Alberto, Riccardo da Cosenza, vai Riccardo, dimmi. Allora, premetto che mi sei sempre stato simpatico, tutte le sparate mi sono sempre state simpatiche, però ultimamente volevo farti questo appunto, quando parli male i calabresi, guarda, io non ho trattato nessun male nessun calabrese, amico mio, ti sbagli, non ho trattato male, ho un sacco di amici calabresi che non è, come dire... ho un sacco di amici gay, non è la stessa cosa, per cui non parlo mai in genere, cioè non è la Calabria, è un non discorso, cioè ho semplicemente detto che Catanzaro è brutta, punto, e ho criticato quei sindaci che hanno fatto, certo, ribadisco, secondo me Catanzaro è brutta. Mi riferisco all'ingenuità dei calabresi di aver fatto uno spot contro calabresi. Alcuni sindaci della Locride, non quelle, i calabresi. Quella è una trovata, quella è una trovata di Clausen. No, ho detto bisognerebbe boicottare questi sindaci, boicottare questi paesi, e bisognerebbe andare più a Jesolo e meno, che ne so, non mi ricordo uno di quei paesi. Dopo questo spot la gente dovrebbe, le persone del Veneto inquadrate come... Ma è un periodo di crisi talmente grosso che eviterei i boicottaggi di tutto, Nicola, e di tutti, ma per carità, frega, c'è una crisi enorme con la gente che muore di fame, il turismo distrutto, Nicola, come si fa a boicottare? Nicola da Milano, vai, dimmi. Ciao, buonasera. Allora, niente, io sono calabrese, io mi sono indignato per il discorso di questo Klaus Davi, che manco è calabrese, tra l'altro, e rompe i coglioni. Tra l'altro lui è svizzero, sì, e lui ne approfitta come ne hanno approfittato i suoi... i suoi nonni nel periodo della seconda guerra mondiale, cioè loro si sono arricchiti con gli ebrei, e lui pensa di venire in Calabria e fare la stessa cosa. Questo però, scusami, Klaus fa il consulente, qualcuno lo paga, qualcuno lo paga per fare questi spot. Infatti alcuni di questi sindaci secondo me si sono incazzati pure con Klaus. Un sacco di gente si è incazzata, tra l'altro io vivo a Milano, sono calabrese, ci sono molte persone che si sono incazzate con Klaus Davi per questa roba qui, cioè per questa roba. Sono uno di questi, perché effettivamente prima di tutto mettere nord contro sud è già una cosa che non va bene. Ma ha cercato di fare colpo come al solito. Fermo là. La zanzara col coltello e calupara. Siamo ultra de Catanzaro, tifosi che ci insultano non ce ne stanno più. Catanzaro, Catanzaro, I love my radio. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Grande Crux, in viaggio verso Malaga per assaggiare la figa andalusa. E in macchina si parla di Anilingus. Siamo al top! Ma a Parenzo piace leccare il culo? Ciao, sono Sergio da Sanremo e anch'io adoro farmi rosicchiare i coglioni dalla mia fidanzata. I love my radio. La zona mesopotamica, quella che va dal buco del culo e il pallame, no? Deve essere depilata? Altrimenti temo che si ritrovino rimasugli di merda. Non penso che poi si possa, diciamo, affondare il naso nella mia zona mesopotamica. Ecco, tutto qua. Volevo sapere se deve essere depilata. Che voglia di cazzo, mamma mia! David, con noi Fabrizio Bracconeri, eccoci qui, caro Fabrizio. Buonasera. Come andiamo? Diciamo abbastanza bene, voi? Beh, non c'è male, ma sei schifato da questa immagine che hai visto sull'immigrato che mangia il gatto? Che, no, ah, che... non c'ho parole. Non ho visto nessuno fare proteste, scendere, però se a Pasqua si mangiano gli abbacchi, tutti a rompere i coglioni. Mentre uno si mangia un gatto, non dice niente a nessuno, va bene così. Fanno queste cose, non ce l'ho con questo poraccio che si è mangiato il gatto, perché per fame si può mangiare tutto. Appunto. Io ce l'ho con chi fa benissimo i soccioni. Ma che c'entra? Ma mica gli immigrati mangiano i gatti, ma cosa dici? Ma che sei scemo proprio, sei tu? Perché si sono mangiati, scusa. Ma no, non è che tutti gli immigrati che vengono qui si mangiano i gatti, ma questo è pazzo completo. Tutti gli spandati che facciamo venire grazie agli amici tuoi. Ma anche te sei uno spandato, ma che ne so che mangi te a casa tua? Perché ti dico che qui a Stefano si sono mangiati pure i cani, hanno fatto una festa con i cani. Ma chi? Si sono mangiati pure i cani, forse non lo sai. Ma chi si è mangiati i cani? Ma chi si è mangiati i cani? I migrati si mangiano tutto. Perché dove si mangiano tutto? Ma perché lo difende, Davide? Ma dove l'hai visto che si mangiano i cani? Perché se uno si mangia la bistecca i cani rompono i coglioni. Ma ti sembra normale? Ma che c'entrano i vegani? Ma cosa c'entrano i vegani adesso? Ma io non cosa ho capito c'entrano? Ma i cani, chi è se li ha mangiati i cani? I vegani rompono i coglioni quando uno si mangia l'abbaccio a Pasqua o a Natale, o uno mangia la bistecca, tutti sono assassini, ammassiamo i cacciatori, non se devono mangiare i maiali, non sono mangiare questi, sono questi che mangiano gli animali in mezzo. Ma scusa, strada, ma chi è che mangia gli animali in mezzo alla strada, Fabri? Chi li mangia? Ma è passato questo, l'hai visto questo? Ok, tu hai detto che si mangiano pure i cani, hai detto. Ma se mangiano, ma la cultura cinese si mangiano pure loro i cani. Io ma che c'entrano i cinesi mo con gli immigrati? Ma cinesi, ma che a parte che l'hanno vietato in Cina adesso. È il modo in cui lo mangiano, è il modo che noi gli permettiamo di fare, perché in Italia se lo facessi io per strada, ma quando faccio una bruschetta a casa mia, ho tenuto la polizia e gli elicotteri, e questi fanno. Ma pensa alle cazzate che fai tu e stai ancora in libertà, anziché pensare a quel matto poveretto, a quel poveraccio. Pensa alle cazzate che fai tu. Che fai terrorismo radiofonico, capisci o no? Che sei un terrorista. Sì, ma comunque voglio capire. Difendi ancora questa gente. Ma questa gente che mangia. Ma io voglio capire. Ma chi è che mangia i cani poi? Non ho capito quali sono gli immigrati che mangiano i cani. Me lo vuoi spiegare chi so? Allora, è successo a Trapani. Al centro di accoglienza a Milo, che si sono mangiati tre cani hanno fatto. È male, si vede che ci avevano fame, bisognava dargli da mangiare, certo, male, ma è colpa nostra, non è colpa loro. I coglioni da noi, capito? Perché in altri posti non ci vanno e non li fanno entrare, solo in Italia li fanno entrare. Non ce li vanno. Hai capito? Ma chi è solo in Italia? Scusa un attimo, ma il campo Rom a Roma, che dici del campo Rom, quello di quello? Buttare il su, radiare, prendere tutti i rom e li metti su tutte belle roulotte, a cacciare il culo via. Ma dove cacciare in Bosnia, in Slovenia, dove sono, andassero via. Qui serve una pulizia totale. Ma quelli sono, scusi, bando. Un italiano non può fare un cazzo e questi fanno quello che vogliono. Scusa, però sono ha detto che l'italiano non può fare un cazzo. Ma cosa dici? Ma sono italiani questi qua, questi rom qua. Ma quali italiani? Io sono italiano. Ma che italiano sei? Vabbè, è italiano. Ma parlano più italiano di te. Parlano il tuo stesso italiano. Hanno il tuo stesso livello di linguaggio. Hanno il tuo stesso livello di complessità di linguaggio. Guarda, uguale. Quindi su quello non scherzare troppo. Sul fatto che loro hanno questo accento così, perché il tuo italiano non è che sia tanto diverso. Questo campo di Castelromano, no? Che faresti con questo campo di Castelromano dove ci sono dei roghi? Allora, con tutti i campi rom, non con quello di Castelromano, con tutti, radere al suolo, organizzare, spendi 300 milioni d'euro, compri tutti i campi e roulotte e a calci il culo fino alla dogana. Ma sono italiani. Ma quale dogana? Ma sono italiani questi qua. Sono italiani. La dogana, i confini. La dogana, il confine, la dogana, l'ex dogana, perché adesso l'ex dogana, pensate, l'ex dogana. Ti porti al confine. Al confino. Vai subito te a Slovenia, dove sei bosniaco, dove sei rumeno, sei bulgaro, dove sei a far culo, è chiaro? Vabbè, ho capito. Ciao, ciao, è tanto serio. Ciao, ciao. Ciao. Signor Bracconeri, David, signor Bracconeri. Mamma mia, un concentrato di razzismo, di idiozia, di qualunquismo. Allora, veramente, lo conosciamo, Bracconeri, così, ma è così, capito, lo conosciamo. È il peggio del peggio, è che cos'è? È Bracconeri, è il peggio del peggio, puoi dirlo, tranquillo, puoi dirlo. Demone! Ciao, mi voglio fare un cicchetto di vino prima di intervenire. Aspetta, senti. Vai, fatti sto cicchetto. Ma tanto non cambia la sostanza. Sei passato sostanzialmente dalle droghe all'alcol oppure sei rimasto sempre fedele all'azienda di partenza, caro Demone? Ma io ho entrambi. Entrambi. Cioè, sono un. Hai ripreso in grande stile. In questo senso. Hai ripreso in grande stile, mi sembra, no? Anche l'uso di droghe o no? Abbastanza, ma comunque è roba di qualità, hai capito? Sempre roba di qualità, sempre. Bisogna puntare sempre alla qualità, come dice Parenzo, sempre alla qualità. Io prima o poi svolterò. Perché sì, adesso... certo. In che senso svolterai? Parenzo! Bravo, Demone, attacco, vai all'attacco, vai all'attacco. Non ho capito, in che senso svolterai, Demone? Svolterò prima o poi, perché tra la truffa dei libri, tra l'ingiusta detenzione che ho fatto, che tra l'altro la ieri mi avete mancato di rispetto perché avete detto che io non posso parlare di quello del gatto, ma io ho ricevuto una minaccia di morte da questo qua con una spranga di ferro in mano. Adesso la vicenda è complessa, diciamo, Esatto, è ingiusta detenzione per quanto mi riguarda, ho fatto anche ricorso al Consiglio Superiore della Magistratura. Pure tu al CSM. Certo, ma come, figurati, ho la PEC, gli ho mandato un esposto lungo un chilometro. Ma non c'entra niente tra l'altro CSM contro queste cose, credo. Non credo che c'entri qualcosa. Comunque, vabbè. Nulla. Hai mandato una PEC al CSM per la tua ingiusta detenzione. Ma dico, eri intervenuto per qualche motivo preciso, per qualche cosa in particolare o così? Perché no, volevi... avevamo parlato ieri per il gatto, perché ci eravamo sentiti ieri che avevamo chiesto. Sì, il gatto, chiesto. Il gatto, sì, eri intervenuto il gatto, per il gatto. Sì, sì, non ti abbiamo allora, messo in onda. Praticamente il discorso è questo: uno che ha fame va alla Caritas, sì, e gli danno il tonno, la pasta, il pollo. Non si mangia un gatto in mezzo alla strada. Tanto più, ok? Sì. Cioè, che meglio che l'ha fatta in mezzo alla strada. Hai insultato l'immigrato, tu mi ricordi? In un messaggio hai insultato l'immigrato, sì. Ho insultato l'immigrato, ma ho visto anche gli italiani, anche i bianchi fanno cose strane. Anche i bianchi fanno cose strane. Sì, tu ma fai cose molto strane, che, ad esempio. Che, io ho visto anche dei neri che facevano sesso col cadavere ti di posso, l'asino. Ti, ti posso dire adesso, francamente. Ti posso dire una cosa, tu che parli di cose strane, tu che parli di cose strane, è un po' come Orban che parla di democrazia liberale, è uguale. Cioè, tu non puoi parlare di cose strane, tu tu che parli con gli alieni, questo è vero, che questo dici, è vero. Questo è vero. Adesso un minimo di decoro, ascolta, un minimo di decoro. Questo è vero, tu non puoi parlare di cose strane, tu che dici di essere in contatto con, cioè, con le, non con hai l'FBI, i titoli con la, per con farlo, la, non, so non hai i titoli per farlo. Ascolta, non, Parenzio, Parenzio, che tu attacchi l'immigrato, anche a me è una cosa strana, cioè, no. Beh, allora io volevo attaccare, ma non perché, ma non l'immigrato. Ma in io, quanto allora, immigrato, allora, cioè, allora, io ho sbagliato perché ho parlato di razza. Posto che le razze esistono a differenza di quello, sì, che però Parenzo, tu non puoi parlare di cose strane. Questo è il punto, demone. Cioè, proprio no, tu ma non puoi. Strane, ma ascolta, ma io posso avere dei falsi ricordi che sono una cosa che può avere chiunque, ok? Ma fatto sta che non è che mi prendo i gatti, li ammazzo per strada e me li mangio, ok? No, questo è vero. Questo il anche reato è vero che ho commesso io, a parte lo spaccio, il reato che ho commesso, beh, io è molto meno. A parte lo spaccio, cioè, non è che. A volte ho spacciato, ma qual è il problema? Ma ho capito, non è che uno dice adulti, a volte spacciamo davanti alle scuole, ok? Ma ho capito, non è che uno può dire a volte ho spacciato. Fammi parlare un attimo. Roba incredibile. Fammi parlare un attimo. A volte ho spacciato, il demone, a volte ho spacciato, che sarà mai? Hai spacciato, non è una bella cosa. Fammi parlare un secondo. Dimmi, demone, dimmi. Io ho fatto un anno e mezzo in attesa di processo in una REMS. Questo negro non si fa neanche un giorno di galera, ok? Ogni tanto ti scopro un po' razzista. Questo negro. Ma perché, guarda, io alla fine, anche se non sono di destra, perché sono contro i manicomi, sono per l'erba legale, sono per tante cose. Ma in realtà dentro di me è un pelino razzista, lo sono. Un filino, anche a vedere un filino quel cazzo di Parenzo come cazzo si pone tutte le volte. Vedete? Comunque, ragazzi, no, scusi, ciao demone, ciao demone, ciao. Ma che quella, ma vaffanculo. Ma querela lui, ma querela, ma vaffanculo. Giulia da Terni, Giulia. Giulia. Siamo all'impazzimento generale adesso. Il demone scimmia che minaccia querela. Ma di che stiamo parlando? Giulia, dimmi, Giulia. Ciao, Crucia. Dimmi, Giulia, dimmi. Io chiamavo niente per ribadire quanto riesci ad essere sessista quando ti ci impegni. Ah, io sarei sessista, adesso l'altra fandonia assoluta, io sono sessista. Ma tu sai cosa vuol dire sessista? Cosa vuol dire odiare il sesso femminile, per esempio? No, no, no, no, no, no, no. Già di fare discriminazioni in base al sesso. E io faccio discriminazioni. Sessismo. Io faccio discriminazioni in base al sesso. Io farei discriminazioni in base al sesso. Non fai discriminazioni in base al sesso in prima persona. E ma allora per sessismo, esempio, quello hai, è. Allora non sono sessista, già ti stai contraddicendo. Hai appoggiato, chi assolutamente ho appoggiato? No. Chi ho appoggiato? Appoggi, beh, fammi parlare, appoggi continuamente chi un sacco appoggi di persone che fanno, che dicono cose estremamente sessiste. Non le faccio parlare, è diversa la cosa. Gli ultimi posto che siano sessiste, le faccio Morelli parlare. E Morelli e Porro. Chi è Morelli? Morelli. Ah, Morelli è sessista adesso. Porro è sessista. Cioè, Morelli e Porro sono sessisti. Ma siamo sull'altro, siamo alla follia più totale. Cioè, Morelli è sessista e Porro è sessista. Morelli, siccome io li faccio parlare o comunque intervengo, io sarei sessista. Ma tu non capisci proprio un cazzo. Questo Morelli, è il punto. Morelli ha fatto delle affermazioni sessiste. Ma che cazzo te l'ha detto? Questo lo dici tu, non è che sta scolpito nella pietra. No, se vuoi te lo dico qual è la frase che ha usato Morelli. È? Avanti, qual è il sessismo di Morelli? Quale sarebbe? Spiegami. Ha detto che una donna può fare l'avvocato, il magistrato, ottenere tutto il successo che vuole, sì, ma se non viene osservata dagli uomini, se non viene guardata dagli uomini, lo sappiamo, non che serve a niente. Non ha detto non serve a niente, vedi, falso, cazzata, non ha detto non serve a niente, puttanata. Ha detto fermi che tutti, no, in una donna hai la detto base. Una cazzata, certo che è la base, che lo vuoi negare. Però. Fermala. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Barisoni gay. Menagramo d'un menagramo. Sono Luca da Padova e anch'io porto la mia ragazza al ristorante con l'ovetto wireless nella figa. I love my radio. Cosa? Ciao, sono Enrico da Monza, ricercatore per una multinazionale farmaceutica e anche io mi sparo le seghe nei bagni dell'azienda. I love my radio. A questo punto, autista del matrimonio di Parenzo, Algero. E alle brutte ho preso il muro, Parenzì, da andare così. Uomo partita, Francesco, l'ascoltatore che ha distrutto, ha attaccato come una zanzara tigre Vissani. A te, Giuseppe. Parenzo stava a parcheggio, parcheggiato con le quattro frecce, diceva solo sta cambiando il clima, l'unica cosa che poteva dire, se no lo sbranava pure a Parenzo. Ma io vi prego, mettete in contatto sto Francesco con Briatore. Mamma mia, che show, vi prego, chiamate Briatore e mettete in contatto Francesco, zanzara tigre dell'anno 2020. Oggi un gatto, domani Parenzo, gnam gnam, miau. I love my radio, Stefano da Lucca. Sono Alexis dalla Romagna e a me fa cagare anche Cosenza oltre che Catanzaro. I love my radio. Allora, ragazzi, in onore di Francesco da Firenze, che alcuni di voi amano molto, ovviamente, beh, rimandiamo in onda tutto. Tipi da Zanzara, il grande scontro Francesco da Firenze, Gianfranco Vissani, vai. Tipi da Zanzara. Francesco da Firenze, vai Francesco, vai, vai, vai Francesco. Senti, Cruciani, io vorrei parlarti un po' di questa attrazione che tu hai dimostrato nell'ultimo periodo per i vecchi. Cioè, come per i vecchi? Secondo me tu non sei solo ricchione, come si dice in gergo zanzaresco, ma secondo me piacciono anche i ricchioni vecchi. Sì. A parte che se mi facessero gli uomini non sarebbe un problema, cioè ti dico, non sarebbe un problema. No, però il problema è questo, che secondo me è l'unica maniera per spiegare certe cose, è Briatore. E Sgarbi, e mo pure Vissani. Ma Vissani è un mio amico, lo conosco da adesso faccio come Donato da Varese, chiamami questo Vissani, perché gli vorrei dire, visto che è così impegnato in politica ultimamente, gli vorrei chiedere se magari non può dare una mano. Ma non è impegnato in politica, interviene nelle trasmissioni a dire la sua. Fanculo, dai, che fa la propaganda a quell'altro lì. Ma che propaganda? Ha detto che ha votato Salvini, ma che cazzo vuol dire la propaganda? Ma che cazzo vuol dire? Perché non vuol dire mai niente qua? Mi chiedo perché non fa un passo in più e per esempio dà una mano ai suoi colleghi ristoratori donando a loro un po' di soldi che si è messo da parte non pagando le tasse. Non pagando visto le tasse? Che... Ma che cazzo stai dicendo? Visto che c'è stata la condanna passata in giudicato per Cassazione, lo ha condannato, se lo è inculato. Ma lo sai quanta gente? Ma la sai quanta gente c'è? Che deve pagare 45.000 euro, d'accordo? Una sanzione combinata al posto di una pena detentiva di 6 mesi. Allora, ho capito, ma sai quanti italiani hanno un contenzioso col fisco? Missioni con questa storia che non arrivano i soldi non arrivano per le teste di cazzo come a lui che certo. Non le pagano. Ma certo, che cosa? E quell'altro fa il Papa e Ciccio con Vissani, adesso invece lo attacca. Da parte non pagando le tasse, facendo un po' di bonifici ai ristoratori d'Italia. Chiamatemelo, dai, chiamatemelo. Finisce di cacare il cazzo. Chiamatemelo. Starà cucinando? Ma che cazzo sta cucinando? Mo vediamo. C'è da fare, è uno chef. L'ultima volta ha cucinato si è fatto il semolino, che è un vecchio rincoglionito. Ma che cazzo dici? Rimane un grande chef italiano, certo. È un po' grossier. Facesse una cosa concreta. Riproviamo. Adesso ti ci faccio parlare. Vediamo come gli rispondi a Vissani. Fammici parlare. Adesso perché uno ha avuto. Bella gang bang che mi produce a sangue, dai. Perché uno ha avuto una condanna a 6 mesi dal fisco. Figuriamoci. Cazzo per mesi con Mimmo Lucano, che poi è venuto fuori. Ma che c'entra Mimmo Lucano? Io ho detto un cazzo su Mimmo Lucano. Ma che c'entra cambiando il clima? Aspetta. Sta cambiando il clima. Mamma mia, sempre a succhiare il cazzo ai ricchi. Ma vai a fare in culo, tu succhi il cazzo. Io non ho mai succhiato il cazzo a nessuno. Sempre a leccare il buco. Ma non rompere i coglioni, ricchi. Se Vissani... Sta cambiando il clima, Ecco, sta quest'altro che lecca il culo a Vissani. Poi, naturalmente, quando Vissani non è in diretta, lo attacca dicendo: beh, sì, effettivamente è stato condannato. Tra l'altro, poi ieri ho visto la prima puntata di Ronda, una cosa vergognosa, veramente. Pronto. Mi chiedevo se il signor Vissani, lo chef, se può dare una mano a questi colleghi ristoratori ai quali tiene tanto, dando a loro un po' di quei soldi che si è messo da parte non pagando le tasse. Questo gli volevo chiedere. Invece di rompere il cazzo in televisione, con Migliore, con quello e con quell'altro, facesse una cosa un poco concreta. Hai pagato tu i soldi delle mie tasse? Che cosa? Non si capisce quando parli, Vissà, non si stai rincoglionendo, non si capisce. No, c'hai la sentenza fatta del giudicato o no? Voglio dire, secondo te mi hai pagato tu i soldi che devo dare? Hai la sentenza passata in giudicato, sì o no? No, niente, non dire le cazzate. C'hai la sentenza passata in giudicato, sì o no? No! Devi pagare 45.000 euro al posto di farti 6 mesi di reclusione, sì o no? Ascoltami, non fare il coglione. Quindi non rompere il cazzo che poi il governo non c'ha i soldi, perché se non ce li hai, colpa di quelli come a te. Sei morto di fame, dove cazzo vivi? Hai capito, rincoglionito, un po' di quei soldi che ti sei messo da parte, comincia a fare bonifici, Non dire che fallo parlare, non dire cazzate. Ha avuto un contenzioso fiscale e ha pagato 45. Ha finito il contenzioso, Cruciani, lo hanno condannato. E beh, che vuol dire? Ma quale condannato, Pirlo? Coglione, che cos'è una sentenza passata in giudicato? Coglione, sei un coglione. Sei venuto pure fuori di carcere perché hai fatto ricorso e non lo potevi fare, rincoglionito. Ma che cazzo stai dicendo, imbecille? Rincoglionito, smetti di rompere il cazzo al governo e comincia a pagare le tasse, oppure fai un po' di bonifici. Sei un comunista di merda, falla finita. Ma quale comunista? Non sei altro. Tu sei un figlio della mignotta, da dove non ti agitare che ti viene un coccolone, rincoglionito. Tu sei un cazzo e parli. Non ti agitare che ti viene il coccolone, rincoglionito. C'è cioè, su tutti i giornali. Paga i 45.000 euro nel frattempo. Ma l'ha pagati i soldi. Francesco, hai rotto il cazzo. Li ha pagati quei soldi. Che cazzo vuoi? Una persona che lavora ha pagato dei soldi perché ha avuto un contenzioso col fisco. Ma che cazzo vuoi, Francesco? Ma che cazzo vuoi tu? Scusami, ma è possibile che ogni volta che ci sono con i soldi li devi succhiare? Poi sentirei a settembre quando saremo tutti quanti in mezzo alla merda sulle piazze, coglione. Ma finisci di fu politico, che sei ridicolo, che sembri un vecchio che urla le nuvole, coglione. Mettiti in cucina e fai il pomolino, incoglionito. Scrofa, te lo dico io tu. Che ne sai di questa cosa? Hai letto un articolo sul giornale e basta, Francesco. Cruciani, c'è la sentenza, rincoglionito, c'è la sentenza. Ma che c'entra? Stai sulla via dell'arcello. Sei culo, imbecille. Che è successo? Imbecille. Vabbè, ma questo. Sono passati. Ma come non ti interessa? La fiscale di merda. Stai zitto un attimo. Tipi da zanzara. Beh ragazzi, che scontro! Alessandro Reggio Emilia, vai Alessandro, vai. Dimmi Alessandro. Ciao Cruciani, è la prima volta che chiamo, ma per dirti solo due cazzate sì. Su quella puttanata che dite sempre lì sul, sì. Sul nero che cucinava il gatto. Quale? Volete smettere di dire di far parlare solo no, però calma, non sento. Sono dei poveretti, non sento. Che hanno investito le loro forze. Non sento. Metti nero, bene questo. Oddio, metti. Solo questo è riuscito a metti fare, bene dai. Questo telefono perché sto sentendo poco. Dimmi Alessandro, cosa vuoi? Senti poco perché sei a una certa età forse. Può darsi, ma sono cazzi miei. Siccome tu stai chiamando qui, stai parlando con me, ti devi adeguare. Allora, dimmi. Io il telefono ce l'ho apposta. Benissimo, adesso so sfogare solamente dei fascisti di merda. Ma non lo so a cosa ti riferisci, non so a cosa ti stai riferendo. All'episodio dell'africano sì. Che cucinava il stai chiamando tu. Dunque parla di sì. Questo episodio, che cazzo vuoi? Chi è che facciamo sfogare? Chi fa sfogare? Qui il microfono è aperto, intervieni io e parli, non rompere i coglioni. Ti ascolto tutti i giorni. E allora che vuoi da me? Solo dei quattro fascistelli che dicono io quel negro lì lo ammazzavo, lo prendevo, c'è stato uno che ha chiamato, rincoglionito. A questi poveri rimbambiti, dai. Benissimo, ci sei tu che fai pari, dunque che cazzo vuoi? Qual è il problema? No, io non faccio pari perché non sono un fascista e non appoggio benissimo. questa modalità da quattro soldi. Qual è la modalità? Ha parlato uno e ha detto una cazzata, punto. L'abbiamo castigato, gli abbiamo detto che è un coglione, punto e basta. Che cazzo vuoi? Cruciani, lo sai perché lo castighi secondo me? Perché tu da 3 anni a questa parte hai cambiato anche il modo di fare la radio. Tu eri quello che insultava gli islamici. L'esegesi. Io non ho insultato nessun islamico. Non ho insultato nessuno. Non facevi le parodie ai neri. Mai avuta con i neri. mai avuto con i neri in vita mia, amico mio. Mai avuto con i neri. Ti segnalo che non ce l'ho mai avuto. Ma io parlo per l'italiano. Che cosa ho fatto? Tu facevi la parodia. Ma quale parodia? Di che cosa? Qual è la parodia? Certo, ti ribadisco qui. Ti ribadisco che si può dire negro. E ti ribadisco che pigliavo per il culo ogni tanto qualcuno che interveniva dicendogli. Tre anni fa, anche un anno fa, anche l'altro giorno. Quando c'è il problema dell'Islam, ogni tanto interviene qualcuno e dico Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma che cazzo vuol dire questo? Cosa vuol dire? Stai ridendo anche tu, cretino di un cretino. Ma saranno affari miei se piglio per il culo. Qual è il problema? Non ho capito che cosa hai dentro. Il problema è che io tutte le volte che sento sfogare un fascista che dice va bene, tiro del culo. Allora fate chiamare, qui non c'è fate chiamare. Non li fate parlare. Ma chi è fate chiamare? Paura del comunismo, dei comunisti. Senti Alessandro, mi hai già stufato perché parli di comunisti, fascisti. Qui ognuno interviene e dice il cazzo che vuole. Vuoi dire delle cose contro questi qua? L'hai detto, punto e basta, punto. Qual è il cioè non capisco qual è la sostanza del discorso. Intervieni per dire sfogare solo dei quattro fascisti ignoranti. Va bene, l'hai già detto, sei fastidioso, sei monotono, sei semplicemente un coglione. Sandro da Napoli, dimmi. No, niente, volevo dirti dei cavalli che stavate parlando prima. È chiaro che i cavalli si fanno male perché le razze che venivano usate all'inizio del Palio non erano quelle, non erano puro sangue, erano molto meno veloci e su un tondo così quella razza che stanno usando adesso non è ideale, però le corse sono fatte per andare sempre più in velocità e le cose sono così. Solo questo. E allora qual è il punto fondamentale? Uno può essere, ma qual è la storia del prima Caporale ha detto una cosa abominevole, che chi organizza il Palio di Siena, i contradaioli, i Fantini sono paragonabili a uno che stupra un pedofilo, è una cosa da vergogna, si dovrebbe non è un'esagerazione, è una follia. La gente del Palio ama i cavalli molto più di Caporale, di qualsiasi animalista li ama molto di più. Alcuni cavalli sono fatti per fare quella roba lì, per fare il Palio di Siena, che sia anche pericoloso per i cavalli, è vero, come per i Fantini, come nella vita, ci sono tante cose pericolose. Bruno dalla provincia di Roma. Bruno, provincia di Roma, vai Bruno. Ciao Cruciani, ciao. Dimmi Bruno, dimmi. Ma o sei in malafede o sei un incapace. Perché non può è essere tutte e due, tu non hai visto la pubblicità sulla Calabria. L'ho vista 100 volte, ma quale? Ma Covid non è nominata e soprattutto non fare il paraculo, Bruno, non fare il paraculo, se vuoi ti cito, i passaggi, il dilagare dell'epidemia nel nord Italia, non dire cazzate. Non si sente, richiamatemi sto coglione, Gianluca da Ragusa, richiamatemi sto imbecille dalla provincia di Roma, Gianluca, dimmi. Luciano D'Ancona, vai Luciano. Ciao Cruciani, ciao a tutti. Sì. Io volevo solo ritornare all'argomento iniziale velocemente. Quale argomento iniziale? Cioè, della caccia. Io non abbiamo parlato di caccia, nessuno ha parlato. Velocissima. Io abito all'interno di Ancona, qui a metà settembre quando si comincia la caccia sparano mezz'ora, 40 minuti poi non sparano più. E chi se ne frega? E allora? Perché hanno ammazzato tutto, perché non c'è più niente da ammazzare, purché li mettono loro i fagiani, gli uccelli. E allora? Dopo mezz'ora. Dunque, ma la caccia è del cosa tutto ci interessa a noi questa roba qua? Cosa ci interessa di quello che accade all'interno di Ancona? Non ce ne frega un cazzo. È un dato che ti do. Ma non lo so, può essere, ma la caccia. Comunque, sono riuscito a fare l'intervento senza dire una parolaccia. Ma non è questione di parolacce, tu puoi dire quello che ti pare. Forse non hai capito, puoi dire quello che vuoi. Hai detto una cosa che non ha alcun interesse, che dentro dove ci sono i luoghi di caccia d'Ancona ammazzano tutti in 40 minuti, può darsi, allora? E dunque? Ci sono campi, la caccia è contro un controsenso, andrebbe abolita, ci sono campi e boschi, devo dire. Bruno quindi... dalla provincia, aspetta, poi devo parlare con Bruno, scusami Luciano. Bruno, dimmi. Dimmi Bruno. Nella pubblicità si parla soltanto di dilagare pandemia. Dell'epidemia nel nord Italia. Ma che cosa c'entra? Sono state le zone con più alto impatto del Covid nel mondo. Senti, amico mio, ma cosa c'entra? Ma cosa? La Moldavia ha messo in evidenza le cose che sono davanti agli occhi. Bruno, vai semplicemente a fare il culo. Perché la verità ma qual è la verità? Vieni, ma io contro i calabresi, ma figuriamoci. Sei contro i meridionali, sei contro il Lucano, e non riconosci che in Calabria ci andate a Jesolo, non in quei comuni che dicono che c'è il dilagare, che dicono che c'è il dilagare dell'epidemia. Ci sono 3.000 anni di cultura che ci separano. Ma chi se ne frega? 3.000 anni di cultura. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Senti qua, fate lì. Dai, vai, va bene. Mo' vedi che 17:27 ti ha scureggiato in diretta, fratello.